Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Puntata speciale oggi. Giovani Talenti si sposta a Strasburgo, negli studi del Parlamento Europeo, da cui vi trasmettiamo per un appuntamento che idealmente intitoliamo Giovani Talenti d'Europa. Le statistiche lo dimostrano chiaramente. I primi tre paesi di destinazione dei nostri 20-40enni sono, secondo i dati ufficiali AIRE, tutti europei. Germania, Gran Bretagna e Svizzera, ma anche Francia e Spagna continuano a rappresentare mete ambite. L'abbattimento delle frontiere, la diffusione di mezzi di trasporto sempre più economici, i programmi di scambio come Erasmus e Leonardo stanno stravolgendo la storia del continente, formando una generazione più mobile, globale, aperta e decisamente meno provinciale. Questa avanguardia trova nell'Europa il suo principale sbocco. A volte lo trova proprio nelle istituzioni europee. Impieghi di profilo internazionale e di grande responsabilità, difficilmente reperibili in Italia. Europa dunque come salvagente della nostra generazione under 40? Lo scopriamo oggi a Strasburgo, capitale d'Europa ed Alsazia. Nome: Raffaella. Alessandro. Francesco. Cognome: De Marte. Gropelli. Cerasani. Età: 32. 27. 30. Città di origine: Milano. Chiari: Roma. Studi: Scienze della comunicazione, liceo classico, poi Bocconi a Milano. Scienze politiche alla LUIS e un dottorato di storia alla Sapienza. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. 2009. 2004. Per andare dove? Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles. Perché? Per fare uno stage. Volevo lavorare negli affari europei e Bruxelles è il posto in cui stare. Come assistente parlamentare. Qual è il lavoro svolge attualmente? Addetta stampa del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Consulente per gli affari europei al gruppo Vodafone. Assistente parlamentare. Dove? Bruxelles e Strasburgo. Tra Londra e Bruxelles. Bruxelles e Strasburgo. Tornerai? Sì, tardi. Sì, e voglio restare. Per ora no. Oggi Giovani Talenti va dunque dritta al cuore dell'Europa. Prima domanda a bruciapelo per tutti i nostri ospiti. Cosa ha rappresentato personalmente per ciascuno di voi l'Europa? Un'opportunità professionale di livello internazionale oppure un'uscita di emergenza dalla difficile situazione italiana, con un paese che sembra in estrema difficoltà nel fornire occasioni adeguate ai suoi migliori talenti? Volevo andare all'estero, non era una fuga dall'Italia. Volevo fare esperienza, non immaginavo che ci sarei rimasta. Però era la volontà di conoscere e imparare meglio le lingue. Da Raffaella ad Alessandro. Anch'io ho colto l'opportunità, d'altronde vogliamo un mercato unico anche per i lavoratori che si devono poter muovere liberamente e quindi mi sembrava giusto prendere questa opportunità. Francesco? L'Europa è stato un sogno realizzato di combinare passione politica con interesse per la cultura europea. Iniziamo con i vostri studi. Raffaella? Io ho fatto il liceo classico a Milano e poi ho studiato scienze della comunicazione allo IULM. Poi a Bruxelles ho fatto un master in relazioni internazionali. Alessandro? Liceo classico a Brescia, che porto sempre nel cuore, corso di laurea in management delle pubbliche amministrazioni a Milano e un po' di ISPI, istituto per gli studi internazionali. Francesco? Liceo classico a Roma, scienze politiche alla LUIS a Roma e un dottorato in storia dell'Europa contemporanea alla Sapienza a Roma. Qualcuno di voi ha avuto esperienza Erasmus? Sì. Ti ha aperto gli orizzonti, Raffaella? Ovvio. Io sì, anche uno scambio con l'Università Bocconi in Giappone, alla Ittō Tsubashi University di Tokyo, una prospettiva diversissima. Qual è il giudizio complessivo sulla formazione che avete ricevuto in Italia? Partiamo con Francesco. Devo dire molto buona per quanto riguarda la scuola superiore, credo non siamo secondi a nessuno su questo e si nota, credo, nel lungo periodo. Sull'università avrei qualcosa da ridire, ci arriveremo più tardi forse. Concordate, Raffaella ed Alessandro? Ma io all'inizio ero un po' scettica della mia università e poi in realtà mi sono resa conto che mi ha aperto delle porte professionali e quindi un'università che non è troppo teorica e che ti orienta verso il lavoro per me è stata la scelta giusta. Sì, Bocconi, questa forse è stata la principale differenza, è privata e lì ho notato che la vicinanza con il mondo dell'impresa era fortissima e sono stato contento per questo motivo. Alma Laurea afferma che il 44% dei giovani con elevato titolo di studio si dice disponibile a lasciare l'Italia, 8 punti percentuali in più rispetto a 4 anni fa. Vi stupisce? No. Perché? Perché è difficile trovare dei lavori qualificati in Italia di responsabilità in cui un giovane può realizzare i suoi obiettivi. Hai detto carriera. Bene, un giovane. È un problema di età? Francesco. Credo andrebbe relativizzato il problema. È anche normale nell'Europa di oggi poter andare e desiderare di andare a studiare all'estero in Europa. Il problema è che i giovani non vengono a studiare in Italia. È anche una parte della questione, io credo. Il famoso saldo dei cervelli, ecco. No? Avete provato ad affermarvi in Italia, a sondare le opportunità a disposizione nella penisola, Alessandro? A dire la verità, no. Però ho provato a guardare un'azienda esclusivamente italiana a Bruxelles. E anche se poi ho trovato il gruppo Vodafone, che è una grande multinazionale, e lì mi sono fermato. Certo, ho visto che molti amici hanno avuto offerte di salari molto più bassi da aziende italiane che stanno a Bruxelles e che quindi non competono sul mercato internazionale. Vedo che Francesco annuisce. Sì, la questione salariale credo sia dirimente, non è soltanto relativa alle istituzioni europee, ma anche nel privato, nei lobby, nelle consultancy, sì, credo sia. Come siete arrivati a Bruxelles, Raffaella? Io sono andata dal professore della tesi di laurea sull'Argentina dicendogli: bene, adesso voglio fare un'esperienza in America Latina. E lui mi ha detto: bene, c'è uno stage a Bruxelles, ti interessa? E tu ovviamente hai detto: perché no? Ahimè sì. Invece voi, Francesco? Facevo semplicemente il militante per la campagna elettorale per un partito del centro-sinistra per le europee nel 2004. Mi sono trovato dalla sezione al Parlamento europeo direttamente. Ho avuto grande fortuna. Alessandro? Uno stage al Parlamento europeo, poi un lavoro ad interim al Parlamento europeo e infine un passaggio di 6 mesi a Telecom Italia, che è un ufficio a Bruxelles. I meccanismi di selezione in Europa sono differenti rispetto all'Italia? Ma io sdrammatizzerei il fatto che in Italia si trova lavoro per contatto e in Europa invece, o negli altri paesi invece, è tutto procedure, non so, tipo curriculum e lettere di motivazione. E non è vero, cioè, come dappertutto conta la capacità di una persona di sapere creare delle relazioni, di farsi conoscere e sapersi fare apprezzare. C'è raccomandazione e segnalazione, però in questo forse no, siamo un po' diversi. No, non è raccomandazione. Vedo che io, Alessandro, io lavoro in un'azienda anglosassone. L'idea di raccomandazione, la definizione è diversa fra l'Italia. Anche a Bruxelles si raccomanda. Io stesso vorrei raccomandare dei miei colleghi delle persone che possano fare bene il lavoro. Se io non credo nel valore di una persona che mi chiede una raccomandazione, non la faccio. Quindi si segnala una persona perché si ritiene che possa fare un buon lavoro. E in Italia, Francesco? Manca il sistema paese, come si dice qua, parola a volte abusata. Qui a Bruxelles l'Italia è il paese che lo usa di meno, questo schema. Appunto, collaborare per poter portare avanti posizioni di persone valide se appartenenti allo stesso paese, cosa che lo vedo al Parlamento europeo e in Commissione europea, tutti i grandi blocchi nazionali fanno. Non è uno scandalo portare avanti qualcuno se bravo, anche se di schieramento ideologico o politico diverso. Per l'Italia ancora non funziona, siamo troppo divisi, frazionati. Quali tappe prima del vostro lavoro attuale, soprattutto, conta di più? Il risultato, il merito, la conoscenza qui in Europa? Raffaella. Io ho avuto solo un'esperienza di lavoro, diciamo, importante, rilevante in Italia dopo essere partita per Bruxelles. È stata scoraggiante, per questo sono tornata a Bruxelles. Perché scoraggiante? Perché venivo da un ambiente aperto, pieno di contenuti, interessante dal punto di vista non solo delle relazioni ma anche della sostanza del lavoro. Sono tornata in Italia anche con questa esperienza ed è stato scoraggiante perché era poco gratificante. Alessandro? Tra gli strumenti che ci servono qui per trovare lavoro ci sono senza dubbio le lingue. Francesco? Le lingue, fin troppo evidente, la rapidità di azione, qua devo dire si va a ritmi molto veloci, e la conoscenza è tutto, credo che la conoscenza dei dossier, stare sul pezzo come si dice, è fondamentale. Ora quello che fate. Raffaella, a soli 32 anni hai la responsabilità di essere la voce online del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, qualcosa di non indifferente. Qualcosa del genere sarebbe stato possibile per te in Italia? Ma intanto i solo 32 anni è un danno. Io arrivo dall'Italia. Italia, molto non, italiana. Non arrivo da Bruxelles. Mi fa ridere perché 32 anni, insomma, ho 8 anni di esperienza professionale alle spalle, per cui penso di potere. Io sono stata responsabile della pagina Facebook del Parlamento europeo, che è una pagina molto grande, e questo mi ha permesso ovviamente poi di iniziare questa nuova avventura con il presidente Schulz. Sì, perché si lavora in team e quindi la voce che io prendo ovviamente non è mai la mia, ma è quella del team di persone che lavorano per il presidente e con il presidente. Francesco, tu sei assistente parlamentare e ti occupi, tra le varie cose, delle politiche per gli italiani in Belgio. Riservi molta attenzione alla cosiddetta nuova immigrazione, lo fai come segretario del PD a Bruxelles. È un trend in crescita questa nuova immigrazione? È una nuova immigrazione in crescita, soprattutto l'immigrazione che non c'entra nulla con i lavori comunitari. Lo dobbiamo dire, si notano sempre di più ragazzi che arrivano, lavori purtroppo spesso precari, lavori normalissimi, che non hanno appunto nulla a che vedere con le lobby, il mondo delle istituzioni. Significa che c'è un'esigenza occupazionale grande. altissima, non soltanto dettata dalla conoscenza dei temi europei, tra i giovani soprattutto. Alessandro, invece tu lavori nel settore privato all'interno delle lobby. Può questo settore privato rappresentare uno sbocco, diciamo pure alternativo, rispetto alle tradizionali professioni in seno alle istituzioni comunitarie? È uno sbocco importantissimo e credo che molti corsi di laurea in Italia orientino giustamente anche in questa direzione. Quello che serve è una forte conoscenza di quelle che sono i processi decisionali europei. Tanta voglia di fare. 27 anni non sono un problema, ma neanche 25. Non si è mai abbastanza giovani per iniziare. A Bruxelles l'età, nella mia esperienza, non è stata un problema. E prima di passare alla domanda di rito, una notizia interessante che arriva proprio dall'Europa. La Commissione europea ha avviato questa settimana un progetto pilota per aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro paese comunitario. Il progetto Il tuo primo posto di lavoro Eures punta a migliorare la mobilità transfrontaliera di 5.000 under 30. Tutte le info su ec.europa.eu/social/your-first-eures-job. Raffaella, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Una proposta concreta da cui ripartire. Essere giovani in Italia è un po' un limite, nel senso che sembra che non puoi assumere un lavoro di responsabilità, la gerarchia è molto più forte, e anche tutto quello che è, diciamo, il cerimoniale, la simbologia del potere negli ambienti in cui lavoriamo noi è molto più sentita. Qui anche le cose più importanti si trattano in modo più pragmatico, più semplice. Alessandro? Se guardo da fuori direi tre cose. Portate a termine la riforma del mercato del lavoro, annullate delle forme contrattuali ridicole che sono difficili anche da comprendere e date degli stipendi degni ai giovani. La generazione 1000 euro non fa tornare l'Italia competitiva. Francesco? Più che una mera questione generazionale, manca certezza, responsabilità, quella che si chiama accountability. Se dovessi fare una proposta, credo andrebbe europeizzata la società italiana, a partire dal basso, dai contenitori sindacali, politici, di rappresentanza, dai curricula scolastici. Questo è il primo passo, forse, per far crescere il nostro paese. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale da Strasburgo vi stiamo raccontando le vicende professionali di Raffaella De Marte, Alessandro Gropelli e Francesco Cerasani, giovane under 40 al lavoro tra Bruxelles e la capitale alsaziana. Chi per le istituzioni europee, chi per le multinazionali che gravitano intorno a queste stesse istituzioni con compiti prevalentemente di lobby. E ci raggiunge ora Bruno Marasà, responsabile dell'ufficio di Milano dell'Europarlamento. Buon pomeriggio, Bruno. Sì, buongiorno. Bruno, tu vivi ormai da molti anni all'interno delle istituzioni europee. Quante storie di giovani bravi, competenti, con una marcia in più potresti raccontare? Quanti ne hai visti passare? Tantissimi, tantissime. Ci vorrebbe davvero una trasmissione per raccontarla. Però direi che il punto di arrivo per molti giovani italiani e non a Bruxelles ha rappresentato davvero una svolta nella loro vita. Cosa li ha portati in Europa? È stato per certi versi uno spreco di capitale umano per il nostro paese? Spero di no, anche perché lavorando in un'istituzione pubblica si può sempre sperare, e questo è già successo, che ci sia un ritorno, perché le istituzioni europee comprendono anche le istituzioni italiane. Però è vero che si viene a Bruxelles perché si spera, si pensa di poter dare di più. Secondo i dati 2010, i 703 italiani assunti al Parlamento europeo sono terzi dopo belgi e francesi. E secondo dati 2012 della Commissione europea, i 2.408 funzionari italiani alla Commissione sono secondi solo ai belgi, che sono i padroni di casa, tra l'altro. Allora, Bruno, come spiegare questa overpresenza di italiani nelle istituzioni europee? Abbiamo una marcia in più? Sinceramente questi dati vanno raffrontati, forse andrebbero articolati con le categorie. Questo è chiaro, sì. Invece può essere interessante sottolineare che ci sono nei gradi medio-alti delle istituzioni europee non sempre gli italiani sono ben rappresentati. E questo perché? Questo dipende anche dal fatto che altri paesi, ne citerei non la solita Germania, ma citerei la Spagna, seguono molto da vicino le carriere professionali, i loro inserimenti nelle istituzioni dei loro connazionali. Il sistema paese. Il sistema paese di cui avete parlato prima. Domande invece per i nostri tre ospiti. Credete possibile una riconnessione del sistema paese Italia con i suoi talenti all'estero? Può essere il primo passo, il volano di un'inversione di rotta, dalla fuga alla circolazione dei talenti, Raffaella? Ma io spero proprio di sì, dipende dall'Italia e dalla sua capacità, dalla sua coscienza di avere questa ricchezza, perché la ricchezza c'è. Non ho mai avuto nessun tipo di feedback dall'Italia sappiamo che esisti, neanche serve questo, serve, neanche, hai toccato il punto centrale, neanche Raffaele. Dai rappresentanti dell'Italia a Bruxelles. Alessandro, facendo le dovute differenze, Monti è il primo talento che è rientrato da Bruxelles, adesso gli altri seguono. Ci scherzo, ma il Wall Street Journal l'ha scritto, ne ha parlato, e parlando con tanti amici a Bruxelles, quando Monti è diventato presidente del Consiglio, ci si è detto, beh, insomma, forse le cose cambieranno. L'inizio del controesodo, Francesco. Nel quadro europeo, sì, sicuramente assume anzi un significato ancora più importante. In fondo i giovani talenti in Europa, nelle istituzioni, sono parte di quel progetto di costruzione di una vera cittadinanza europea. L'Europa siamo noi e va spiegata, va raccontata nei giorni quotidiani, nei singoli gesti. Io credo che chi fa parte di una funzione pubblica europea deve sentire anche questa missione. Bruno, quanto l'integrazione europea, facendo viaggiare, studiare e lavorare i giovani tra i paesi dell'Unione, può giocare un ruolo sempre più fondamentale nel far nascere una nuova classe dirigente in Italia? E questa classe dirigente potrà trovare spazio nella nostra penisola? Direi che è fondamentale. È fondamentale, e questo però, aggiungerei, non comporta lo spostamento fisico da Palermo a Bruxelles o a Londra. La base è di vivere, pensare, studiare in un contesto, in una dimensione europea. Poi si potrà fare probabilmente lo stesso lavoro, avere le stesse ambizioni, partecipare allo stesso progetto, anche non dovendosi necessariamente spostarsi dalla propria città o dalla propria regione. Però l'Europa è in noi, quindi dobbiamo abituarci a pensare europei. Grazie a Bruno Marasà. E domanda di rito per i nostri ospiti: quale consiglio dareste a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Raffaella. Fate studi brevi, concreti, e cercate di fare la specialistica all'estero per le lingue, per il respiro internazionale. Non siate timidi, rompete le scatole, buttatevi. Alessandro. Non abbiate paura, prendete un aereo e partite. L'Europa alla fine è casa nostra. Francesco? Le lingue, studiate oltre il necessario, perché fa sempre bene approfondire, abbiate fiducia sul futuro, verso il futuro. L'Europa è un'opportunità splendida, ci sarà la crescita, l'economia si riprenderà, e è merito di tutti noi, se sarà così bisogna lavorare. E ci ha appena raggiunto il vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella, buon pomeriggio. A voi. Due domande, vicepresidente. Abbiamo, secondo lei, un problema di brain drain dall'Italia in tutti i settori? Lei pensa soprattutto che il sistema paese e le sue istituzioni stiano reagendo con ritardo, e cosa fare? Sì, esiste una mobilità che io considero in larga parte anche fisiologica, nel senso che la circolarità delle intelligenze non è una patologia, se è una circolarità in andata e ritorno, cioè se vanno manca via ritorno. Ma deve esserci il ritorno, altrimenti è una patologia. Al momento c'è solo in parte, e bisogna creare le condizioni perché vi sia, e le condizioni sono una ricerca, un sistema universitario, scolastico, un sistema lavorativo, un mercato del lavoro accogliente, un mercato più competitivo nel senso della competition, più concorrenziale, dove ci sono meno rendite di posizione, ci sono meno barriere e c'è più spazio per gli outsider, meno difesa degli insider. Vicepresidente, ai giovani all'ascolto cosa consiglia? Restare e lottare in Italia per un cambiamento, oppure venire in Europa e cambiare l'Italia da qui? L'Italia fa parte dell'Europa. Finiamolo con questa storia che noi dobbiamo andare in Europa. Noi siamo Europa. I giovani che vengono a frequentare Bruxelles, che vanno a Londra, che vanno a Madrid o che stanno a Roma, purché facciano cose di eccellenza e che facciano scambi, il viaggio è importante. L'Erasmus ha contribuito in maniera straordinaria alla crescita delle giovani generazioni e alla integrazione europea. Noi dobbiamo incoraggiare e sostenere questi scambi. Perché, e poi incoraggiare una riconnessione. I giovani, infatti, e poi perché i giovani tornino e mettano a valore sul proprio territorio, possibilmente, l'esperienza, la competenza, le lingue. C'è un sistema paese pronto a questa riconnessione? Lei lo vede? Beh, così. Se devo essere sincero, all'Italia va aperta una fase nuova di rinascita, e ora bisogna aprire le porte per una rinascita che passa attraverso i giovani. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti, o nella pagina fan Fuga dei Talenti potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa e sui nostri canali online compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti